Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Bentornati a Smart City. Nella puntata di ieri sera abbiamo parlato del progetto GRACE, con il quale l'INRIM, l'Istituto Nazionale di Ricerca Meteorologica, sta guidando una ricerca volta a stabilire quali debbano essere gli standard di qualità per questo nuovo materiale, il grafene, di cui abbiamo parlato tante volte, il primo materiale bidimensionale scoperto dall'uomo, formato da un singolo strato di atomi di carbonio. Il grafene, su cui ci sono moltissime aspettative per le sue molte proprietà elettriche, meccaniche, elettroniche, proprietà eccezionali, sta per diventare una realtà commerciale ed è necessario stabilire degli standard di qualità, dei punti di riferimento su come devono essere fatte le misure, su come deve essere fabbricato lo stesso grafene. E il progetto GRACE si occupa proprio di questo. E questa sera torniamo da Luca Callegaro, ricercatore dell'INRIM e coordinatore del progetto, che è in linea con noi. Buonasera Callegaro. Buonasera. Per anche fare un po' il punto sulla situazione del sviluppo tecnologico del grafene, quanto siamo vicini a utilizzare il grafene nell'industria elettronica in modo massiccio? Ricordiamo che in ballo c'è la possibilità, per esempio, di fare dei dispositivi elettronici flessibili. Immaginate un cellulare che si arrotola come una pergamena. E allora, Callegaro, proviamo a fare un po' il punto sullo stadio di questo percorso verso la produzione industriale del grafene elettronico, cioè quello da cui ci si aspettano più innovazioni. Intanto, riusciamo a produrre dei fogli di grafene? Quanto sono grandi? Quanto costano? Allora, l'azienda che è il nostro partner, che è in linea con le altre nel mondo, produce fogli di grafene dell'ordine della dimensione di un compact disc, per intenderci, con costi dell'ordine del migliaio di euro al cliente finale. Ogni foglio, naturalmente, sì. Quindi un dischetto da 10 centimetri, 12 centimetri di diametro costa 1000 euro, più o meno. Sì. Ecco, quali sono oggi le tecniche per produrre questo genere di materiale che se la giocano, insomma? Sì, le tecniche, il grafene è stato scoperto esfoliando la grafite, quindi riducendo la grafite, che è come fosse una specie di pacchetto di grafene, di fogli uno sopra l'altro, è possibile staccare piccole particelle che risultano di un solo strato atomico, quindi di grafene. Sono piccolissime, vengono fuori a caso. È impossibile pensare a qualsiasi applicazione industriale basata su questa tecnica. C'è poi una seconda tecnica, che è quella di scaldare un materiale che è il carburo di silicio, che è composto di carbonio e silicio, far evaporare il primo strato di silicio e rimane uno strato di carbonio. La problematica è che per fare questo occorre arrivare a 2500 gradi di temperatura, è impossibile pensare a dimensioni più grandi del centimetro quadrato. La tecnica invece, che è di applicazione industriale, cioè che viene adesso seguita dalle aziende che producono grafene, è quella di deposizione da fase vapore. Si prende un substrato, lo si scalda a temperatura di alcune centinaia di gradi, si fa passare un gas che contiene il carbonio, per esempio il metano. Il metano si decompone e lascia questo primo strato di carbonio sul substrato. La tecnica al momento è limitata dal fatto che il substrato deve essere metallico, tipicamente di rame. Deve essere quindi staccato dallo strato di rame e posato sul substrato di interesse, per un isolante. Si può immaginare quanto difficile possa essere staccare un foglio, spesso un solo atomo di un materiale, da un altro. E infatti questo è il punto debole, no? Tecniche chimiche, il rame viene dissolto, però è comunque una tecnica estremamente delicata, che tra l'altro degrada le proprietà del grafene. Il grafene fatto partendo dalla grafite è di qualità migliore, purtroppo è inutilizzabile per l'industria. Secondo lei quali saranno, quindi considerato quello che abbiamo detto anche sui costi e i tempi, le prime applicazioni di questo grafene di grado elettronico? Allora, le prime applicazioni saranno applicazioni per le quali anche le tecnologie competitive che non coinvolgono il grafene hanno costi particolarmente elevati, quindi sensori di alto livello. Il grafene è uno strato singolo di materiale, quindi è in grado di assorbire gli eventuali contaminanti che ci sono nell'atmosfera, nei liquidi con cui può venire a contatto, e quindi costituire un sensore elettrico di elettrochimico, diciamo, contaminanti, no? Chimici. Certo, certo. C'è poi un importante filone di applicazioni in cui la trasparenza del grafene, quindi la possibilità di integrare tecnologie elettriche e tecnologie ottiche, risulta particolarmente importante. Questa trasparenza verrebbe anche sfruttata naturalmente in futuro, se i costi fossero competitivi, nei display per i cellulari, per le televisioni, ma occorre chiaramente che in questo caso il costo del materiale deve ridursi sensibilmente. Ecco, a che ordine di grandezza bisognerebbe arrivare? Beh, sicuramente bisognerebbe scendere a, per cominciare anche solo a pensare di avere dispositivi, bisognerebbe scendere al prezzo dell'ordine del centinaio di euro wafer per applicazioni molto specifiche e molto costose, che sarebbero sì, comunque molto costose con le tecniche tradizionali. Per arrivare ai prodotti consumer, lo schermo del cellulare, per intenderci, è chiaro che bisogna scendere a prezzi inferiori alla decina di euro. Certo, certo, quindi qualche euro contro i 1000 di oggi. Ecco, ma con queste tecnologie che si utilizzano oggi, è realistico, è un obiettivo lontano o è solo una questione di investimenti? Beh, certamente gli investimenti come al solito sono importanti. È questione di trovare la giusta condizione di substrato, di gas, di modalità di trasferimento del film. Al di là del costo, il problema di questo trasferimento dello strato di grafene, staccare questo foglio di grafene, diciamo, peggiora le proprietà. Questo è un problema grosso. È una ricerca per sua natura lenta, perché vanno testate tecniche via via più raffinate. Per avere, non è una novità nel mondo dell'elettronica, per avere il piccio della qualità attuale che usiamo per i dispositivi, ci sono voluti 40 anni. Quindi diciamo che le tecnologie attuali non si possono trasferire così come sono sulla larga scala, non avrebbe senso. Okay. Posso dire che ci sono anche altri materiali bidimensionali che sono stati scoperti dopo il grafene, hanno uno stadio di sviluppo inferiore, non è possibile ancora costruire grandi aree, può darsi che alcuni di questi materiali risulteranno maggiormente competitivi rispetto al grafene stesso per le applicazioni in elettronica. Il nostro progetto al momento si focheggia sul grafene, ma le tecniche e le problematiche che vengono affrontate saranno sicuramente molto simili anche nel caso dei materiali di futura generazione. E certo, voi state mettendo le pietre angolari di tutta una serie di tecniche di misurazione che riguarderà tutta questa classe di materiali bidimensionali che è in arrivo, successori, figli, chiamiamoli così, del grafene. C'è una domanda che volevo farle ancora riferita a questo progetto di misurazione nel quale voi siete coinvolti, e cioè da dove viene la richiesta di elaborare questi standard? Perché uno dice verrà dai governi. No, assolutamente. La normativa internazionale è regolata degli organismi di carattere pubblico, l'ISO, l'IEC in ambito internazionale, in ambito nazionale sono l'UNI e il CEI. Questi organismi normativi hanno comitati tecnici, sono composti prevalentemente di aziende. Il comitato tecnico ci ha richiesto, e quindi ha supportato poi anche la richiesta di fondi per questo progetto, la ricerca su queste problematiche di misura delle proprietà elettriche del grafene, proprio perché è interessato a costruire una normativa, usare i risultati del nostro progetto come, se vogliamo, input per realizzare la normativa. Per una normativa tecnica, appunto, sì. E quindi è particolarmente interessante per noi il progetto, perché viene direttamente da una richiesta di questi comitati tecnici, che di fatto sono consorzi di industrie. Se vogliamo, un'accusa che viene fatta spesso ai ricercatori è che si inventano il problema e poi cercano di risolverlo. In questo caso è stata una richiesta diretta per risolvere un problema specifico. E quindi l'applicazione delle ricerche che si faranno in questo progetto è veramente diretta. Tutto questo però, insomma, ci dice anche che la produzione su scala industriale massiccia del grafene è vicina, perché le industrie evidentemente hanno bisogno di questi standard per poter lavorare le une con le altre e quant'altro. Va bene, grazie Luca Callegaro, ricercatore dell'INRIM. Grazie a voi. Ci fermiamo qui, ci diamo appuntamento a domani. Buona serata.